su CRM Happy Radio Déjà Vu con Mary Catalano. Eccoci qua, buongiorno, di nuovo insieme qui su CRM di Radio, l'appuntamento del giovedì e del martedì. Oggi è giovedì 21 febbraio e questo è Déjà Vu, appunto il programma insieme a Mary Catalano che vi sta parlando in questo momento e lo farà fino a mezzogiorno, non ininterrottamente, altrimenti la testa vi parte, sicuro, però senz'altro la musica la farà da padrona come sempre all'interno di questo appuntamento, al quale potrete contribuire anche voi quest'oggi tramite i vari modi che avete per mettervi in contatto con noi. Interagite tramite i numerini che subito torno a ricordare, il nostro dovere ricordarvi che c'è il 3355637251 sempre a vostra disposizione se volete mandare gli sms, se volete richiedere qualche canzone, se avete qualche lamentela da fare, qualsiasi cosa. Noi siamo qua pronti per intervenire insieme a voi, magari su qualche argomento anche un po' particolare, se volete magari, che ne so, accennare a qualcosa di cui volete discutere, anche tramite Facebook, se volete scriveteci alla nostra pagina Facebook e poi anche al nostro sito internet, dove ci seguite anche in streaming, il www.crmepiradio.it. E qui vi volevo proprio salutare, proprio a voi che in questo momento ci seguite in streaming, siete davanti al PC, state lavorando, state giocando, che cosa fate? Fatecelo sapere, è normale che si può interagire anche in questo senso, oramai si fa tutto con il web, lo sappiamo benissimo. Ok, come dicevamo prima, la musica la fa da padrona all'interno di questo appuntamento che dura circa 2 ore e naturalmente continuiamo, abbiamo appena cominciato ed ecco che continuiamo con un altro bellissimo successo di questo periodo che ascoltiamo tutti quanti insieme, mi auguro molto volentieri, giusto? E se non è così, che ne dite di proporci voi qualche canzone di particolare, qualche canzone che vi piace? Allora, usufruendo proprio dei modi che vi ho elencato poc'anzi per interagire con me. Ancora buongiorno! Non so come vi siete alzati voi questa mattina, ma io ho un torcicollo che mi servirebbe, un osteopata, sapete quelli che vi smontano? Mi servirebbe proprio, un torcicollo terribile, come si fa? Mi alzo bene e poi, eccolo. Dammi lo spazio e il tempo, ho anche solo un frammento della tua attenzione, perché possa colpirti, sei turti, avverti, in concatenazione di causa, effetto, di un fascino. spazio e il tempo. Ho appena un argomento di conversazione con cui possa sfiorarti. Radio all'interno di Deja Vu, i Subsonica con La Funzione. Continuiamo sulla scia della musica italiana. Ecco che arrivano le prime segnalazioni, questa volta per Gianna Nannini e Nostra Storia. Salutiamo Elena che ce l'ha segnalato, grazie a te. Per questa nostra storia da anni in penitenza, anni in difesa, indipendenza, senza dirlo mai. E tu la chiami storia, ma sembra un labirinto. Senza cercarci, senza vederci, poi ritorniamo qua. In un secolo, in un'ora o in un attimo, è sempre il tuo sguardo contro il mio. Mi racconta la tua storia che però diventa anche la mia. Mille anni fa, da domani. Ti racconta la mentre ti accorgi che ti amo. La voglio vedere. Neanche noi. Fra poco ci sentiamo col prossimo singolo. Déjà vu su CRM Happy Radio. I can't buy your love. Don't even wanna try. Sometimes the truth won't make you happy. So I'm not gonna lie. But don't ever question if my heart beats only for you. It beats only for you. Perfect, nothing like your entourage. I can't grant you any wishes. I won't promise you the stars. But don't ever question if my heart beats only for you. It beats only for you. Cause when you've given up, when no matter what you do, it's never good enough. When you never thought that My Kind of Love, Emily Sandé, la serata di gala a Londra per gli Oscar della musica britannica. Diciamo che Emily Sandé se l'è cavata davvero alla grande. L'edizione 2013 dei Brits Awards, tra tante star, ha visto proprio trionfare due emergenti come Emily Sandé e Ben Howard, unici artisti a portarsi a casa due premi: migliore solista femminile e migliore album la Sandé, mentre miglior solista maschile e rivelazione dell'anno Howard. Tra gli ospiti

Guarda che non sono io è il singolo di Francesco De Gregori che abbiamo ascoltato dal suo ultimo album bellissimo, a quanto pare, da questi due singoli che ha sfornato ultimamente. Primo La strada, sulla strada, anzi, che è proprio l'omonimo titolo che dà all'album intero. Basta un'autostrada, avere un pieno di benzina, vedere un angelo di schiena, è un traghetto che è in partenza per un'isola siciliana. Si parte per dimenticare o per cercare un lungomare, per avere un'altra vita e per poter ricominciare. Io sto bene quando sto lontano da me, io sto bene quando sto lontano da me, io sto bene quando sto lontano da me, lontano da me. Guarda, dove l'ignoto ha il suo profumo, io vado incontro al mio destino, seduto accanto a un finestrino, e con in tasca un passaporto, e all'orizzonte un nuovo viaggio, con quella libertà speciale che ha solo l'uomo di passaggio. Io sto bene quando sto lontano da me, io sto bene quando sto lontano da me, io sto bene quando sto lontano da me. Travidi una strada e in un mercato in Turchia mi accorsi che era la mia, perché alla giusta distanza la vista migliora e allontana. Io sto bene quando sto lontano da me. E come si fa a scappare da se stessi? Ce lo domandiamo. Anche se viaggi, anche se vai lontano, ti porti dietro sempre, sempre te stesso. Quindi ti conviene fare prima una curetta dell'anima prima di andare in qualsiasi parte del mondo, no? Va bene, carina questa canzone di Niccolò Fabi comunque. E nel frattempo continuiamo con la musica che ci segnalate anche voi. Questa è proprio carina. Ben Pierce si chiama. Stavo dicendo Ben Harper, è un altro artista quello là. Invece questo è Ben Pierce, si chiama What Am I Do, il singolo. I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me. You made me do inside. Look like you're working up an appetite for the night. Yeah, it. By then I just sat at the back, keeping you out the way you act. Gave a string and that. Getting out of line, I'm taking you back in your place. All is well and all is good. Stay in your place, don't be no fool, we'll get along alright. You look like the type that would drive by. Best off being a friend of me. You don't want to up in me. Better play it cool. Don't know what I might do. I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me. You made me do inside. Look like you're working up an appetite for the night. Check it.

semplice che c'è, sono l'uomo giusto per te. Tanta energia per il nuovo singolo di Vasco Rossi che ultimamente ascoltiamo tantissimo, L'uomo più semplice, è richiesto da voi al 3355637251. E Martina, non preoccuparti, fra poco arrivano i Coldplay, me ne ero quasi dimenticata. I Coldplay che dovevamo ascoltare già. Déjà vu su CRM Happy Radio. Abbiamo sentito i Coldplay per la gioia di Martina, e visto che sono in quattro c'è chi li ha definiti nuovi Fab Four, ma in realtà i Coldplay più che ai Beatles si ispirano ai Radiohead oppure agli U2. Di fatto il loro sound ha spaziato dall'intimismo melodico al soft rock, senza mai perdere la capacità di cospargere di malinconia i momenti che ognuno di noi vuole evocare. E naturalmente i Coldplay con le loro sonorità hanno preso un grande pubblico, hanno preso il pubblico internazionale naturalmente, da ogni parte del mondo. E i Coldplay, quando si sente parlare di loro, insomma, fanno abbastanza rumore e si fanno sentire. I loro concerti sono straordinari, spettacolari, e sempre stracolmi di gente, è sempre tutto sold out. Ogni volta che viene fuori una data è già tutto esaurito. Tutti che vogliono andare a vedere i Coldplay dal vivo, compresa me, chissà se un giorno esaudirò questo desiderio musicale, speriamo al più presto. Intanto, nel frattempo, un altro desiderio musicale invece è quello di Marina, che ci segnala Pink con il suo nuovo singolo, e noi lo ascoltiamo subito. Just Give Me a Reason, Pink, il nuovo singolo per lei, grazie a Marina. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Just Give Me a Reason, Pink e Nat Russ, naturalmente accontentiamo con questo singolo Marina. E Pink in concerto, imbragata con funi e cinghie, volteggia e si dimena come un funambolo al circo. E la spettacolare esibizione di Pink durante il suo The Truth About Love Tour, al debutto sold out allo Staples Center di Los Angeles, la cantante ha sfoggiato come sempre il suo fisico molto tonico e muscoloso che ha ultimamente, e non ha mai smesso di stupire il pubblico tra salti, piroette, volteggi e veri e propri numeri da circo. E poi ha anche detto: io credo di cantare meglio a testa in giù, sto trovando difficoltà a ricordare le parole in piedi, ha detto Pink, che non ha preso, non ha perso l'occasione di lasciare tutti senza fiato mentre, stringata in top e leggings in pelle nera, si è dimenata come un funambolo per tutta la durata del concerto. E quindi The Truth About Love Tour è iniziato tra soli due giorni, inizia fra soli tre giorni, insomma è già un grande successo per la Pink. Nel frattempo in sottofondo c'è una bellissima canzone per voi che vogliamo ascoltare subito. Loro sono i Radiohead, la canzone si chiama Wish You Were Here, un bellissimo successo che sicuramente crea un'atmosfera particolare all'interno di questo appuntamento di oggi con Deja Vu insieme a Mary Catalano, con voi sino a mezzogiorno. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from earth? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Thank you. Un grande classico dei Pink Floyd, reinterpretato da Thom Yorke, un Thom Yorke straordinario in questo singolo, il leader indiscusso dei Radiohead, che torneranno molto presto, devo dire, con un nuovo lavoro discografico. E proprio ai Pink Floyd sono paragonati i Radiohead, i Pink Floyd del terzo millennio sono considerati, e poi un grande carisma sicuramente, tra l'altro sono un gruppo apprezzato dalla critica, un grande gruppo che sicuramente si merita tanti premi, e quindi la critica sicuramente è positiva, e in quel senso è tutto a favore del Radiohead, che torneranno in studio, detto proprio da Thom Yorke in un'intervista, sul finire dell'estate, quindi nel 2014 avremo un nuovo album per questa grande band che stamattina abbiamo sentito con questo grande classico. Grande tutto qui, questa mattina. Grazie anche alle vostre segnalazioni che arrivano al 335-5637-251, il numero di CRM Happy Radio per le vostre segnalazioni, insomma il numero per gli sms. E poi non dimenticate, in streaming ci seguite anche in internet ovunque voi siate, la www.crmhappyradio, ok? Abbiamo ancora circa un poco meno di un'oretta, comunque un bel po' di tempo per sentire tanta buona musica ancora, e allora andiamo avanti con il nostro appuntamento. Torniamo alla musica di oggi, e c'è il nuovo singolo per quanto riguarda i One Republic, If I Lose Myself. Ancora un buon ascolto. I lose myself tonight. Ci piace cantare questa canzone, mi piace questo nuovo singolo per quanto riguarda i One Republic. Il successo travolgente di questo gruppo è arrivato nel 2007 con l'album di debutto Dreaming Out Loud, grazie alla hit Apologize, vi ricordate? Sicuramente sì, perché è stata proprio un boom di successo questa canzone qua, che ha sconvolto le classifiche mondiali con oltre 10 milioni di download e il maggior numero di airplay nella storia. E poi c'era il secondo singolo Stop and Stare, che ha regalato alla band una nomination ai Grammy come Best Pop Performance by a Duo or Group with the Vocals. E nel 2009 e poi c'è stata la volta del secondo album Walking Up, che includeva le hit All the Right Movies, Secrets e Good Life, tutte in testa all'Airplay Chart. Insomma, grande successo che continuano a confermare grazie anche a questo nuovo singolo che abbiamo sentito, che si chiama If I Lose Myself, ovvero se perdo me stesso, eccetera eccetera eccetera. Insomma, ritornano con questo singolo che preannuncia l'arrivo del nuovo album che si chiama Native, in uscita il prossimo 26 marzo, e poi ci sarà il tour che partirà da Milano il 2 aprile, il nuovo tour europeo della band, per cui attendiamoci tante belle cose anche da parte di questo gruppo, i One Republic. Intanto, fra poco continuiamo con la musica, si torna alla musica italiana con la di Zucchero, sempre all'interno di Deja Vu, insieme a Mary Catalano, con voi sino a mezzogiorno. Rimanete là. Deja Vu su CRM Happy Radio. Ho visto un sogno, l'ho visto e c'è, oltre le stelle, acceso in me. L'ho visto in terra, l'ho visto in te, l'ho visto dove, visto dove. Love is, love is all around. L'ho visto altrove, l'ho visto qua, nel sole giallo, io l'ho visto già. L'ho visto al buio, con gli occhi tuoi, quando i miei occhi erano stanchi ormai. Love is, love is, it's all around. It's all around. Stiamo ballando tra le rovine, sulle macerie, cercando amore fino alla fine. Tra le nostre miserie. Love is All Around, il nuovo singolo per Zucchero che ultimamente ascoltiamo davvero tanto. È una delle canzoni più belle che in questo periodo ci piace ascoltare e vi piace richiedere i nostri numerini, che sono sempre gli stessi, il 335-5637-251 e poi il numero fisso, se volete potete anche utilizzarlo, 0921-92-32-92. E parliamo delle sigarette elettroniche che potrebbero essere presto vendute solo ed esclusivamente in farmacia. La Commissione Europea ha appena varato una direttiva per trasformare la quasi totalità delle sigarette elettroniche in prodotti medicinali. Il testo dovrà essere approvato da Parlamento e Consiglio naturalmente, ma quando diventerà effettivo nel 2014 porterà tutti i vaporizzatori di nicotina con capacità superiore a 2 mg, ovvero il 90% del mercato, in farmacia e saranno sottoposti alla stessa regolamentazione dei prodotti medicinali. Chiaro? Piccola curiosità per voi, interessante se siete fumatori, se non siete fumatori meglio ancora. Ok, intanto andiamo avanti col nostro appuntamento e c'è un'altra bella cosetta per voi, un'altra di quelle cose in questo periodo veramente sentiamo tantissimo anche. I Follow Rivers, e allora non possiamo far altro che muovere il nostro corpicino in qualsiasi modo possibile, visto che magari molti saranno al lavoro, non è che uno si mette a ballare così all'improvviso, eh? Magari, che ne so, se state davanti a una scrivania, muovete i piedini. Oppure se state facendo le pulizie, a mo' di ritmo di musica. cosa del genere. È contagiosa. Beh, diciamole, è contagiosa questa canzone qua. Come contagiosa anche la canzone che stiamo ascoltando già in sottofondo, eh? Gli Next Says Need You Tonight. Quelli che hanno vissuto la loro infanzia, anzi la loro adolescenza negli anni Ottanta, si ricorderanno sicuramente di questo singolo. È sempre molto bello. All you got is this moment. 21st century's yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. I've been Déjà vu su CRM Happy Radio. Love.

Machine Vending, insomma machine, come le chiamano gli addetti ai lavori, sono sofisticati negozi in miniatura nei quali è possibile acquistare di tutto, dagli snack ai libri, dai sexy toys ai biglietti aerei, dalle ricariche per i telefonini alle pizze appena sfornate. Pensate, solo nel nostro paese, secondo Confida, l'associazione italiana dei distributori automatici, sono davvero tantissimi questi distributori, una ogni 25 abitanti praticamente, e generano un fatturato annuo di circa 2,5 miliardi di euro. A farla da padrone sono i caffè, ne beviamo circa 6 milioni al giorno, seguiti dalle altre bevande calde, dalle bibite, dagli snack e dai gelati. Ma cos'altro si vende nei milioni di distributori automatici sparsi per il mondo? Beh, davvero di tutto, macchine preziosissime e nati negli Emirati Arabi. Questi distributori automatici, addirittura di lingotti d'oro, sono ormai presenti in diversi paesi. In Italia si trovano nelle aree di partenza degli aeroporti di Linate a Milano e distribuiscono lingotti d'oro da 24 carati. Pensate un po', allucinante questa cosa qua, però c'è un distributore automatico in questo senso. Ovviamente non si paga in monete, ma con la carta di credito, quindi sappiatelo. Intanto andiamo avanti con il nostro appuntamento, continuiamo con la musica italiana, c'è quella di Fiorella Mannoia che sentiamo con Ho imparato a sognare. Ancora ben trovate, siete all'interno di Déjà Vu insieme a Mary Catalano. Vi ricordo a mezzogiorno l'appuntamento con carta e penna insieme a Filippo Glorioso. Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche un'età. Quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là, tra quel prete noioso che ci dava da fare, il pallone che andava come fosse a motore. C'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi ha da avere avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone, che se sogni ne ammazzi metà. Quando inizi a capire che sei solo in mutande, quando inizi a capire che tutto è più grande. C'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, e se cado una volta cadrò, e da terra da lì m'alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. A sognare quando inizi a scoprire che ogni sogno ti porta più in là, cavalcando aquiloni oltre muri e confini. Ho imparato a sognare da là, quando tutte le scuse per giocare son buone, quando tutta la vita è una bella canzone. C'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Avrò. E se cado una volta cadrò, e da terra da lì mi alzerò. c'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. Déjà vu su CRM Happy Radio. Sai, la gente è strana. Prima si odia e poi si ama. Cambia idea improvvisamente. Prima la verità, poi mentirà. Noi senza serietà. Come fosse niente. Sai, la gente è matta, forse troppo insoddisfatta. Segue il mondo ciecamente. scoppiettanti più che mai Red Hot Chili Peppers con Goodbye Ray, il loro nuovo singolo, in chiusura quasi, anzi in chiusura assolutamente per quanto riguarda l'appuntamento di oggi con Deja Vu insieme a Mary Catalano, che naturalmente vi riporta l'appuntamento a martedì prossimo, quindi la prossima settimana. Ormai questa settimana per noi finisce qui, nel senso che comunque i due appuntamenti li abbiamo diciamo già consumati in qualche maniera, si dice così anche. Ok, intanto martedì prossimo vi aspetto sempre dalle 10 sino a mezzogiorno, naturalmente Deja Vu, la musica a voi, io insomma tutto quello che poi viene insomma all'interno dell'appuntamento. Ok, vi lascio, vi auguro un felice weekend e fate bravi, ciao.